Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È riuscito a uscire dalla sua auto che è precipitata e sono morte tre persone. È stato condannato per omicidio plurimo colposo a 14 mesi. E quindi è un pregiudicato, è un assassino. Noi dobbiamo adesso strutturarci in modo di far dare le dimissioni a Napolitano, perché se vinciamo le europee non ha più il sostentamento proprio politico, non può stare in piedi la larga intesa se noi siamo la prima forza politica. Qui si vota per le elezioni europee. Se Grillo va sotto la terrazza di Napolitano, gli andrà a fare una bella serenata. E siamo alle battute finali, è il caso di dire battute, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di questa campagna elettorale sempre più infuocata. Ci sono ancora diversi giorni davanti, man mano saliranno, vediamo a che livello arriveranno tra tutti i leader politici. Stasera, tra l'altro, ci sono altre presenze in TV, sulla 7 ci dovrebbero essere Renzi, Berlusconi e Di Battista del Movimento 5 Stelle, ma insomma imperversano un po' in tutti i programmi. Ieri, lo sapete, il grande successo di Grillo a Porta da Vespa. Oggi pomeriggio Renzi è andato anche da Barbara D'Urso su Canale 5, quindi diciamo non si risparmiano nulla e anche noi non risparmiamoci nulla nel racconto delle notizie della giornata, come sempre. Tra poco però è stato subito appena un segnale e subito parte la sigla. No, volevo dirvi prima che c'è sempre a vostra disposizione la possibilità di commentare i fatti della giornata su Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Quello che mi piacerebbe sapere oggi da voi, al di là degli insulti, delle battute tra i leader politici, mettiamo appunto i tre protagonisti, che cosa vorreste sentirvi dire in vista dell'Europa? Che cosa vorreste sentirvi dire in questa campagna elettorale? Intanto io quello che vi dico sono i fatti principali del giorno. Elezioni europee, aspro scontro tra Grillo e Berlusconi. Renzi dice: loro litigano, io governo. Casa ha approvato il decreto, ora è legge, e l'ABI fa sapere: nei primi tre mesi sono ripartiti i mutui. Torna nell'occhio del ciclone il cardinale Bertone. Il tabloid tedesco Bild sostiene che è indagato. Lui smentisce e dice che è tutto regolare. Libia, riunione a Palazzo Chigi in vista del G7. Intanto la commissione elettorale libica annuncia l'elezione del nuovo Parlamento per il 25 giugno. Mondiali, primo ritiro a Coverciano. Parla Prandelli, che dice: la squadra è costruita per arrivare fino in fondo. Partiamo quindi dalla campagna elettorale, ormai, vi dicevo, nelle fasi finali in vista delle elezioni europee del 25 maggio. I toni si alzano di giorno in giorno, oggi sono in particolare volate frasi come schiaffi, un po' ve l'avevo anticipate, tra Grillo e Berlusconi. Assassino ed evasore, accuse, scontri, tensione sempre più alta in vista delle europee, con un linguaggio sempre più cruento. Questa volta è Silvio Berlusconi ad attaccare Beppe Grillo. Il leader di Forza Italia continua a ribadire che quello del Movimento 5 Stelle diceva le stesse cose di Hitler in campagna elettorale. È conosciuto, dice Berlusconi, come uno che non faceva uno spettacolo se non era pagato in nero. E poi arriva l'accusa più grave sulla 7. Con colpa ha fatto morire, ha ucciso tre amici, è riuscito a uscire dalla sua auto che è precipitata e sono morte tre persone. E quindi è un pregiudicato, è un assassino. Beppe Grillo risponde che sono voci dell'aldilà. È fantastico che uno dei più grandi evasori della storia dia dell'evasore a lui. Il leader del Movimento 5 Stelle insiste poi sul significato politico del voto. È il più grande voto politico che gli italiani possono dare. Noi o loro. Il gioco c'è di rifare un governo italiano. Non c'è il governo italiano, non c'è il Parlamento, c'è un signore messo lì da nessuno. Matteo Renzi risponde ancora una volta che si vota per le europee e non per le politiche. Loro, Grillo e Berlusconi, litigano mentre lui governa. O noi ci armiamo di curiosità intellettuale e ci leviamo un po' di puzza sotto il naso, oppure sta campagna elettorale diventa semplicemente un ping pong di slogan e di insulti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quando parla Grillo metto le cuffie. Usa l'ironia il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, capolista di Scelta Europea per la circoscrizione centro, per commentare i toni accesi che il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, utilizza in campagna elettorale per le europee. Il ministro Giannini inoltre punta sulla necessità di investire meglio i fondi strutturali. Finora abbiamo dato all'Europa un euro e abbiamo riportato a casa 40 centesimi, quindi c'è un gran lavoro da fare, ma io penso che attraverso la cultura della progettazione, della rendicontazione ben fatta, si possa arrivare a dare un euro e portarne anche più di uno. Bisogna utilizzare i fondi comunitari anche per lo sviluppo delle grandi imprese, avverte invece Nichi Vendola. Per il leader di SEL, la folla di ieri a Bologna per Tsipras dimostra che c'è uno spazio possibile per la sinistra nel paese. La nostra lista, dice lo stesso Tsipras, candidato alla presidenza della Commissione europea, punta a essere la sorpresa di queste elezioni. Ottimista anche il leader di NCD Alfano. Non abbiamo ansie per le soglie di sbarramento. Folta la schiera degli euroscettici, a cominciare dalla Lega Nord. Uscire dall'euro conviene, dice il segretario Salvini. L'Italia non è seconda a nessuno. Euroscettica anche Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. La prima casa è un bene sacro che non si può tassare per regalare soldi all'Europa. Giuseppe Carlo Magno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il Presidente della Repubblica Napolitano da Berna, dove si trova in visita di Stato, ha lanciato un monito. Lo scontro tra i partiti sulle elezioni europee è aspro, dice, ma bisogna mantenere l'unità. Nel frattempo non mancano le inchieste, le novità, no? A surriscaldare ulteriormente il clima in vista del voto. Ci sono le inchieste, per esempio in Campania è stato arrestato uno dei candidati. Ai domiciliari per tentata concussione, questa la sorte toccata a Giovanni Romano, presidente del Consiglio regionale della Campania, nonché candidato alle europee nella lista del nuovo centrodestra. Secondo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, l'esponente politico avrebbe esercitato indebite pressioni e minacce per costringere il direttore sanitario amministrativo al vertice del distretto sanitario di Capua. Romano, si legge nella nota della Procura, ha strumentalizzato le prerogative inerenti alla sua carica, contattando in diverse occasioni Menduni e minacciando ispezioni e controlli della regione presso l'ASL qualora non avesse accolto le sue richieste. E a commentare l'arresto di Romano e lo stesso leader del nuovo centrodestra Alfano, sarebbe stato meglio che i magistrati avessero deciso prima della presentazione delle liste o dopo il voto. Si sarebbero evitati i sospetti sul timing dell'arresto, mentre il coordinatore nazionale Quagliariello è convinto che Romano riuscirà a dimostrarsi estraneo ai fatti contestati. Beppe Grillo invece coglie l'occasione per attaccare, seppur con ironia, i magistrati si calmino, non c'è più bisogno di arresti, la gente ha capito che l'unica alternativa siamo noi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Al momento comunque questa non è l'unica inchiesta che coinvolge i politici. Chiara Rizzo, la moglie dell'ex parlamentare Amedeo Matacena, coinvolta nel caso Scajola, vi ricordate, è stata oggi estradata in Italia, quindi è tornata in Italia. Il marito è intervenuto questa mattina in collegamento da Dubai a 24 mattino. Matacena ha confermato di non aver mai avuto rapporti di affari con Scajola. L'altra inchiesta che scuote la politica poi è quella dell'Expo 2015. Proseguono gli interrogatori e quali sono le novità? Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta, le novità arrivano dall'ultimo interrogatorio, il secondo davanti ai PM di Sergio Cattozzo, che di fatto ha sommato tutte le cifre che erano state versate e promesse a quella che ormai è stata ribattezzata la cupola degli appalti, e ha detto ai PM che contavano di arrivare a più di 2 milioni di euro. E il conto appunto l'ha fatto direttamente colui che manteneva la contabilità delle tangenti, Sergio Cattozzo, perché a lui sono stati già sequestrati dei foglietti, dei post-it dove aveva annotato proprio per sua stessa ammissione le cifre ricevute o promesse soprattutto dall'imprenditore Enrico Maltauro, l'imprenditore veneto che secondo l'accusa sarebbe stato favorito negli appalti Expo, ma non solo, anche in quello dell'appalto dei nucleari Sogin, un affare da 90 milioni di euro per la quale la cupa degli appalti contava di ricevere una percentuale di 1,5 punti. Le tangenti andavano dunque ad oleare, diciamo, questi ingranaggi, e secondo lo stesso Cattozzo queste tangenti finivano anche a Luigi Grillo, l'ex senatore PDL, a cui oggi il GIP ha rifiutato gli arresti domiciliari. Grillo è anche l'unico, come primo aggregante, che ha perfino ad ora negato ogni responsabilità. Ammette invece di aver preso soldi dall'imprenditore veneto, anche se li chiama regalie, pure Gian Stefano Frigerio, l'ex parlamentare DC, considerato il trade union col centrodestra e soprattutto con Berlusconi. Niente affatto di regali, ma esplicitamente di tangenti, e le tangenti per lavorare aveva in realtà parlato con i magistrati lo stesso Maltauro, l'imprenditore. E così appunto con questi soldi da una parte, ma anche con le minacce se era necessario, così come emerso in alcune intercettazioni, questo gruppo cercava di allungare le mani pure sui lavori dei padiglioni dei paesi stranieri, ben 10, quelli che su cui l'ex compagno G Greganti cercava di piazzare cooperative amiche. Ultimo elemento che si è venuto a sapere oggi, che la procura aveva chiesto al GIP di accelerare una decisione sugli sugli arresti Expo, temendo che ci fossero una fuga di notizie, e questo riguarda tutta la vicenda dello scontro che c'è ai vertici della Procura di Milano per degli atti che erano stati mandati al CSM. Si attendeva già per oggi una decisione, ma in realtà Palazzo dei Marescialli rinvia tutto a giovedì. Roberta. Grazie Raffaella Calandra. E invece, passando ad altre cose, al decreto casa che oggi è stato approvato, il decreto legge casa è stato approvato definitivamente dalla Camera con 272 sì e 92 no, e prevede, ormai è legge, niente luce e gas per chi occupa abusivamente una casa, anche se vuota, bonus mobili fino a 10.000 euro svincolati dalle spese di ristrutturazione, una cedolare secca al 10% per i canoni concordati. Queste sono alcune quindi delle misure principali previste. Riparte intanto il mercato dei mutui in Italia. Nei primi tre mesi, secondo il rapporto mensile dell'ABI, le nuove erogazioni hanno registrato un incremento superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2013. Il calo dei prezzi, specie a sud, ha inoltre reso più accessibile l'acquisto di immobili per le famiglie. E poi c'è il caso Bertone, che è scoppiato oggi. Secondo il tabloid tedesco Bild, il cardinale è indagato per appropriazione indebita, ma il diretto interessato smentisce. Poi ne parleremo in particolare con Gianluigi Nuzzi, giornalista d'inchiesta che molto si è occupato di Vaticano. Per passare invece alla cronaca, la strage di Tempio Pausania in Sardegna, prime ammissioni dell'amico di famiglia fermato ieri. Resta in carcere Angelo Frigeri, l'artigiano 32enne fermato ieri a Tempio Pausania e accusato di omicidio plurimo e crudeltà. Ha ammesso di aver partecipato all'omicidio di Giovanni Azzena, di sua moglie Giulia e del loro bambino, Pietro, ma sul come e il perché restano molte cose da chiarire. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tre persone entrare in casa. Frigeri aveva le chiavi, era il tuttofare degli Azzena e forse qualcosa in più, dicono i carabinieri. Complice di Giovanni in una serie di piccole truffe e raggiri. Vittima innocente di una resa dei conti sarebbe stato Pietro Azzena, 12 anni, che il capo della procura di Tempio, Domenico Fiordalisi, definisce due volte testimone scomodo. Testimone scomodo non solo di un fatto di sangue, ma probabilmente testimone scomodo anche di fatti di delinquenza pregressi. I funerali previsti domani pomeriggio a Tempio. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci all'estero. Si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione di coordinamento sulla Libia, alla quale hanno partecipato rappresentanti di esteri, interno, difesa, sviluppo economico. Si è fatto insomma il punto sui drammatici sviluppi che sono in corso anche in vista degli appuntamenti internazionali ai quali prenderà parte Renzi, a partire dal vertice dell'Unione Europea del 27 e del G7 di giugno. Intanto la Commissione elettorale libica ha annunciato l'elezione del nuovo Parlamento il 25 giugno. In Nigeria invece ci sono decine di morti negli attentati di Jos nelle ultime ore nella Nigeria centrale. Lo annunciano le autorità. Per quanto riguarda le ragazze rapite, ogni tanto qualche ascoltatore mi chiede se ci sono novità. Non ci sono particolari novità. Nei giorni scorsi l'ultima notizia è che il governo stava cercando un po' di trovare un accordo, di contrattare con il gruppo islamico Boko Haram. E adesso cambiamo completamente argomento. Dopo Booking ed Expedia, l'antitrust indaga anche su TripAdvisor, il sito internet che pubblica le recensioni dei clienti di alberghi e ristoranti. Quell'albergo è stupendo, invece la recensione era falsa. Da denunce come questa è partita l'indagine dell'antitrust su TripAdvisor, il sito che offre le classifiche e le recensioni di ristoranti, alberghi, pub e quant'altro sulla base del giudizio degli utenti. Per l'antitrust è necessario approfondire se questo portale mette in atto delle pratiche commerciali scorrette, come spiega il presidente dell'antitrust Giovanni Pitruzzella. Potrebbero esserci delle recensioni non veritiere. Da una parte appunto chi se ne fa da solo, se ne fa con soggetti compiacenti, dall'altro lato invece motivi di appunto in concorrenze sbagliate, concorrenze con armi non corrette. Con questa mossa l'antitrust di sicuro conferma la sua maggiore attenzione nei confronti di internet. Già ieri infatti l'autorità aveva deciso di indagare anche Booking ed Expedia, altri due nomi noti ai viaggiatori che si informano e prenotano sul web. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere il calcio, inizio ufficiale oggi a Coverciano del ritiro della nazionale in vista dei mondiali del Brasile, ma di questo poi parleremo dopo in un modo più approfondito. Invece adesso, prima degli aggiornamenti per chi sta viaggiando, vi ricordo che se volete intervenire attraverso i due canali qui a Effetto Notte, attraverso la pagina Facebook della trasmissione oppure con gli sms al 349 238 6666, potete sempre farlo naturalmente, in particolare particolare questa sera su che cosa vorreste sentir dire dai leader politici italiani in questa campagna elettorale. Intanto ringrazio un ascoltatore che parla di sollievo, mentre c'è Giovanni da Milano che dice: vorrei sentire i politici ammettere che hanno fallito. L'Italia è tra i paesi con la peggior burocrazia, giustizia, mobilità sociale, natalità e opportunità in genere. Siamo la prima generazione che starà peggio della precedente in vari secoli. È una vergogna tacere. No, no, lo stiamo dicendo da tempo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, quindi potete continuare a mandare i vostri messaggi su cosa vorreste sentir dire in campagna elettorale, quali sono i temi che mancano, le cose che vorreste sentir finalmente affermare. Qualcuno diceva, appunto Giovanni da Milano, vorrebbe dire che sentire i politici ammettere che hanno fallito, che l'Italia è uno dei paesi con la peggior burocrazia, natalità, mobilità sociale, giustizia, eccetera. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, vedo arrivare anche lì i messaggi, ma prima vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento o se volete solo sentirle ripetere, le notizie principali di oggi. A partire naturalmente dalle elezioni europee, dalla campagna elettorale, alle ultime battute, aspro scontro tra Grillo e Berlusconi, in particolare Renzi che dice loro litigano, io governo. Casa ha approvato il decreto, ora è legge, e l'ABI fa sapere che nei primi tre mesi sono ripartiti i mutui. Torna nell'occhio del ciclone il cardinale Bertone, il tabloid tedesco Bild, che sostiene che è indagato, mentre lui smentisce e dice che è tutto regolare. Libia, riunione a Palazzo Chigi in vista del G7, intanto la commissione elettorale libica annuncia l'elezione del nuovo Parlamento il 25 giugno. Per i mondiali, primo ritiro a Coverciano. Quindi cominciamo a parlare di questo scontro totale sulle europee con Stefano Folli. Bentornato Stefano. Eccomi, ciao. Editorialista di Sole 24 Ore, commentatore politico. Senti, mi sembra di assistere, probabilmente succederà anche negli altri paesi, è una specie di wrestling politico, sai, quegli energumeni che si danno botte, tutti i tipi si acchiappano per i capelli, per le ginocchia sui ring, per lo più americani. Mi sembra che succeda la stessa cosa negli altri paesi. Mi sembra che altrove la campagna elettorale è molto dura, ma tocca le questioni soprattutto europee e il modo di stare in Europa. Da noi invece, un giorno dopo l'altro, piano piano si è arrivati a affrontarsi duramente con questi scontri all'arma bianca, verbale, soprattutto dimenticando i temi europei e concentrandosi invece sulle questioni interne, come se fossero elezioni politiche per il Parlamento nazionale, quando invece appunto si va a votare per il Parlamento europeo. Questo è un terreno su cui Grillo naturalmente ha un vantaggio, perché ha tutto l'interesse che le cose che le decisioni, le scelte politiche elettorali si svolgono su questo terreno, perché insomma, che questo voto di domenica sia un referendum pro o contro il governo avvantaggia soprattutto una forza contro come il Movimento dei 5 Stelle. Mi sembrano che gli altri siano stati un po' troppo imprudenti a non capire qual era il gioco del loro principale competitore, e soltanto adesso vedo che Renzi ha capito forse qual è la posta in gioco e cerca di rimediare dicendo insomma, votate per il mio governo, perché sta facendo determinate cose con decisione, con determinazione. Forse bisognava essere chiari fin dal principio. Ma diciamo, è indubbio che ieri Grillo ha avuto un grandissimo successo, no? Uno share eccezionale, era contento persino Vespa, anzi soprattutto lui probabilmente, e è possibile che Grillo abbia spostato alcuni voti, per esempio si dice tradizionalmente quelli del centrodestra, di qualcuno che è ormai scontento di Berlusconi. Guarda, io questo non lo posso sapere, però vedo che chi lo teme molto è Berlusconi. Berlusconi teme moltissimo di essere insomma, che Grillo gli sottragga voti, e infatti gli attacchi violenti, molto violenti, direi con colpi sotto la cintura, no? Come si dice in un linguaggio della box, vengono proprio da Berlusconi. Che ha detto che è un assassino, no? Aveva detto. Sì, ha detto che è un assassino, rispolverando la questione dell'incidente stradale per cui Grillo fu condannato anni fa, ma insomma era una cosa notissima, è un argomento che non è mai stato usato fin quando si pensava che Grillo non fosse una minaccia. Adesso che lo è diventato, si usa questo tema come fosse un po' l'arma finale, insomma, il tentativo estremo di tenere a bada un personaggio che potrebbe insomma, suggestionare e attrarre voti dal vecchio elettorato berlusconiano. Senti, a proposito di questi colpi sotto la cintura, poi Grillo ha detto Berlusconi va in giro, fa campagna politica nonostante sia condannato per frode fiscale, quindi un evasore. Berlusconi però ha ricordato, dice, gli spettacoli di Grillo erano pagati in parte in nero. Sentiamo questo passaggio. Grillo è conosciuto in tutto il mondo dello spettacolo come uno che non faceva spettacolo se quanto lui dovuto non era pagato in gran parte in nero. L'ha denunciato un coraggioso imprenditore, mi sembra che si chiami Licuori. Tutti i giornali hanno fatto finta di non sentire, credo che solo un giornale abbia dato questa notizia, ma ce ne sono molti altri. Ecco, hai sentito, questo è un altro dei passaggi, insomma, come tu dicevi, negli altri paesi probabilmente adesso in vista delle elezioni europee staranno sui temi più pregnanti. Sì, ecco. Tieni conto che negli altri paesi non esiste un fenomeno come i 5 Stelle, è un fenomeno questo che abbiamo in Italia, che è un fenomeno senza precedenti, perché adesso qui la preoccupazione di molti è che Grillo vada oltre quel 25% che era già una enormità che ha preso nel febbraio del 2013, e questo fenomeno senza precedenti spiega anche perché le reazioni sono così, diciamo, aspre e anche imprevedibili, perché è un fenomeno rispetto al quale il sistema ha difficoltà a misurarsi. Ma è possibile secondo te? Ecco, adesso vedo Renzi a Bessagno Mobile sulla 7, magari vediamo se riusciamo a far sentire qualche passaggio. Lui però ha detto, mi pare in serata, in realtà queste sul governo, queste elezioni non avranno nessuna incidenza, sono elezioni europee che riguardano l'Europa. Secondo te è un po' in difesa, nel senso in posizione di difesa nel dire queste cose, perché sente, come dicevi tu, il rischio di... Insomma, a me sembra che ci sia stata una grande incertezza. All'inizio è stato sottovalutato che queste elezioni, se fossero finite a essere una specie di referendum sulla politica italiana, sui partiti italiani, sul governo, finivano per essere, come dicevo prima, un vantaggio per Grillo. Mi sembra che tutti, compreso Renzi, abbiano un po' sottovalutato questo aspetto. La campagna era cominciata con molte battute di spirito, battute effetto, e adesso si scopre invece che è una partita molto dura, in cui gli argomenti, diciamo, che devono essere al cuore della questione, cioè come stare in Europa, sono stati via via dimenticati. E adesso è difficile ritirarli fuori adesso è veramente un referendum sul governo. Naturalmente poi il governo non è che cade il giorno dopo, perché queste sono elezioni appunto che non riguardano la nostra politica interna, riguardano il Parlamento europeo. Però indubbiamente, se i risultati fossero di un certo tipo, tutto sarebbe molto più complicato, sarebbe complicato soprattutto fare anche le riforme, le famose riforme, la riforma della legge elettorale, la riforma del Senato, sarebbe tutto molto più complicato, e quindi effettivamente il braccio di ferro adesso è nel suo momento di massima intensità. Sentiamo che cosa dice Renzi a Bersaglio Mobile. L'Europa è che continuano a fare le piccole beghe italiane, a discutere delle piccole beghe italiane. Pur tutta mia, quando lei dice votate tutti ma non i buffoni, si capisce chiaramente che lei percepisce una presenza ostile, chiamiamola così. Mentale, che sta intervistando Renzi. Sa benissimo che il giorno, la sera delle elezioni, alle 23, quando noi faremo i primi exit poll. Siamo già alla pubblicità. Diamo la pubblicità. Lei farà una diretta conoscendola che finirà la mattina dopo alle 11:30, un quarto e mezzo. Con le preferenze avrà da divertirsi. Guardi, se vuol venire non faccia niente. Vabbè, diciamo, a parte i convenevoli, andiamo su contenuti. Va bene, è per quello che facciamo gli exit poll, che sono. Io lunedì lavoro, quindi. Noi lavoreremo già la domenica sera, quindi stia tranquillo. Ma lì sa benissimo che non si dirà hanno portato in Europa 12, 15, 20, 30 europarlamentari. Si dirà ha ottenuto il X%. Certo. E Grillo, quanto ha fatto Grillo? Perché tutti sanno che lei arriverà primo e che Grillo arriverà secondo. Già questo sarebbe una novità rispetto all'altra volta, perché se noi guardiamo i voti dell'altra volta sulle liste, non era andata così sulle liste, poi sulle coalizioni il ragionamento è cambiato. Si parte da 25,6 Grillo, 25,4 noi, 21,3 Forza Italia, 21,2 PDL. Quindi c'è, adesso c'è anche NCD che sta al governo e che punta ad avere un buon risultato, comprensibilmente. Alla perché lei fa il tifo, oltre che per il suo partito, anche per le altre forze. Io faccio il tifo per l'Italia. Questa è una cosa che vabbè, insomma, Stefano, per il momento niente di così esaltante, diciamo. Stanno girando intorno alla grande preoccupazione, che sono le percentuali elettorali. Questa la caratteristica di questi ultimi giorni è la preoccupazione che hanno, che ha il Partito Democratico, che ha Berlusconi in forma direi evidente e che naturalmente ha anche Grillo, perché anche Grillo gioca molto della sua credibilità in queste elezioni. Se dovesse retrocedere rispetto al dato del 2013, si dirà che le cose sono andate male per lui e che il suo fenomeno, il fenomeno dei 5 Stelle, ha cominciato a sgonfiarsi. Quindi no, ognuno gioca parecchio in questa campagna elettorale e siamo adesso arrivati un po' al nocciolo finale. Ai conti finali. Sentiamo per esempio Grillo a proposito della preoccupazione di Renzi, che cosa dice? Ma io credo che oggi lui abbia capito che ha perso, quindi si sta già organizzando per dare l'informazione del contrario, cioè di dire che in fondo le europee non sono le elezioni, non conta, si vede, sono gli ultimi giorni di Pompei. Gli ultimi giorni di Pompei, insomma, Stefano. Ognuno tira l'acqua al suo mulino in questo momento, vediamo. Sono curiosa di vedere proprio le ultimissime battute, dove arriveranno, ma intanto ti sottopongo alcuni messaggi dalla pagina Facebook di Effetto Notte su cosa le ascoltatrici e gli ascoltatori vorrebbero sentir dire in questa campagna elettorale, anziché gli insulti. Simone dice: azioni concrete nell'enorme settore del sociale. Elias dice: guardate che la gente non ne può più con Berlusconi né Grillo, ormai non offrono soluzioni reali, vediamo che cosa può fare Renzi. Arcuri scrive: intanto mandiamo a casa i responsabili della nostra attuale situazione economica, Grillo al momento è l'unico che può risolvere l'urgenza. E poi Elias l'avevo già letto. Donata: da quando in qua la campagna elettorale si dice qualcosa di sensato, dice Vittorio, che ci offrono delle soluzioni, i problemi li conosciamo fin troppo bene, quindi insomma dicano che cosa intendono fare. Domenico Alberto dice: penso al mio settore, la sicurezza deve essere un poliziotto, cosa ne pensano anche in rapporto con l'Europa. Giuseppe: la domanda che nessuno fa, sono tutti d'accordo che bisogna rinegoziare in Europa, ma se la Commissione, cioè la Merkel, non vuole, che si fa? Dice. Capito, insomma, i temi sono tantissimi, poi ci sono tanti altri messaggi. Vedo che molti ascoltatori giustamente sottolineano il profilo europeo della campagna, no? La necessità che le risposte che vengono chieste ai politici siano comunque in raccordo con la prospettiva delle politiche europee, e questo mi sembra molto giusto. Hanno più saggezza gli ascoltatori di quanto abbiano i protagonisti del dibattito politico. Forse ci vuole poco, oserei dire, ma insomma, comunque. Allora Stefano, prometti che ci risentiamo anche nei prossimi giorni. Ciao Stefano Folli, grazie. Ci prendiamo una pausa di pubblicità, fate le vostre riflessioni, sempre la pagina Facebook di Effetto Note e i messaggi al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi, stavo leggendo ancora i vostri messaggi, e vedo ancora Renzi da Mentana, però adesso tra poco dobbiamo passare anche ad altri argomenti, intanto vi leggo quelli che sono stati i principali argomenti di oggi. Naturalmente l'abbiamo detto, in primissimo piano la campagna elettorale per le europee con gli attacchi finali, in particolare tra Grillo e Berlusconi, Renzi che dice che loro litigano, lui governa e che in realtà queste elezioni europee non dovrebbero avere peso sul governo. Casa, è stato approvato il decreto che ora legge, torna nell'occhio del ciclone il cardinale Bertone, il Bild tedesca sostiene che è indagato per appropriazione indebita e poi abbiamo detto per i mondiali primo ritiro a Coverciano della nazionale. Quindi vi dicevo che il cardinale Tarcisio Bertone, ex segretario di Stato Vaticano, finisce nuovamente nell'occhio del ciclone. Vi ricordate prima il mega appartamento in Vaticano, notizia poi bollata dal porporato come gogna mediatica, poi la disputa dei salesiani su un'eredità contesa che ogni tanto riemerge, ora un fondo destinato alla società televisiva Lux Vide, quella che produce praticamente la fiction di Don Matteo. Ogni volta insomma, c'è una questione di soldi, di articoli di stampa, di smentite parziali, totali, e Vi ricordate, per esempio, anche era piuttosto al centro di questi intrecci complessi all'epoca in cui regnava Benedetto XVI, no? Che poi era sfociato nello scandalo VatiLeaks. Insomma, oggi la Bild, questo popolare tabloid tedesco, sostiene che Bertone sarebbe stato messo sotto inchiesta dopo che l'autority finanziaria del Vaticano avrebbe accertato la sottrazione, contro l'opposizione della Banca Vaticana, di 15 milioni di euro dello IOR, cioè della Banca del Vaticano, da destinare a questa Lux Vide, società di produzione televisiva di Ettore Bernabei, uomo vicino all'Opus Dei ed ex presidente della RAI. Però Bertone ha smentito nel pomeriggio, e così anche il portavoce del Vaticano, Federico Lombardi. Ora saluto, per parlare di questo argomento, Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao a te, buonasera a tutti. E Gianluigi Nuzzi, ciao Gianluigi. Buonasera. Giornalista, saggista, conduttore TV, autore di molti libri, anche di bestseller come Vaticano Spa e Sua Santità. Gianluigi, tu che te ne eri occupato a fondo, hai fatto inchieste, era venuta fuori anche la storia del Corvo, di VatiLeaks, proprio anche dalle tue inchieste. Che cosa pensi di questo nuovo capitolo? Ma io penso che la storia di Bertone sia ancora tutta da scrivere, da leggere, da conoscere. Io personalmente, sono giusto per non mandarle a dire, con Bertone non ci berrei nemmeno, non dico un caffè, ma nemmeno un bicchiere d'acqua minerale, perché rappresenta tutto ciò che è esattamente il contrario di quell'opera di rinnovamento, di cambiamento che Papa Francesco sta portando avanti. Ci sono delle smentite, che lui, come dire, abbia particolare attenzione al denaro non mi sorprende. Basta ricordare come coltivarsi i suoi rapporti con la potentissima organizzazione americana dei Cavalieri di Colombo, che allo IOR, cioè la Banca del Vaticano, avevano, che sullo IOR avevano più di un interesse. Bertone viene indicato, a torto o a ragione, questo lo dirà la storia, come l'uomo del via degli interessi, dei complotti all'interno delle sacre stanze, l'uomo che ostacola quell'opera di pulizia avviata da diversi monsignori come Monsignor Viganò. Quindi questa storia poi è smentita. Certo, c'è da dire anche questo, che la polizia all'interno del Vaticano fa capo a un capo dei gendarmi, si chiama Domenico Gianni, che era un fedelissimo bertoniano, anzi direi che l'ultimo bertoniano rimasto all'interno della curia romana, quindi mi sorprenderebbe che potesse andare a investigare sull'operato dell'ex segretario. Concludo dicendo che, giusto per capirci, due fatti. Uno, Bertone vive in 400 metri quadrati, nessuno va a trovarlo, il Papa vive in 60-40 metri quadrati a Santa Marta, non vive più in un appartamento pontificio, e quando si affaccia a San Pietro è piena di gente, soprattutto di speranza. L'altro aspetto che mi viene da ricordare è quello che mi diceva il maggiordomo del Papa di Ratzinger, che mi diceva il famoso Corvo. Corvo in realtà per me è un eroe, un uomo coraggioso che ha la forza di denunciare certe cose, perché poi tutto avviene, i nodi vengono al pettine, quello che lui denunciava e veniva giudicato eretico oggi è l'agenda delle riforme di Papa Francesco, e bisogna vedere infatti questo Papa che non si è dato di Bertone. E a differenza di Bertone, ha preso un segretario di Stato, Parolin, che ai suoi collaboratori dice: datemi del tuo e chiamatemi per nome. Questo è il cambio di passo. Carlo Marroni, sei d'accordo con la descrizione, l'identikit praticamente che Nuzzi ha fatto di Bertone, e questa contrapposizione tra quello che Bertone ha significato e significa in parte ancora, e il rinnovamento voluto da Bergoglio? Beh, insomma, leggendo i fatti di oggi, ora al di là della Bild che insomma, ha detto cose che ora non so se siano vere, il Vaticano le smentisce, infatti anch'io non ho trovato, diciamo, conferme sull'indagine penale, certo c'è una verifica interna. E quello che diceva Nuzzi naturalmente ricorda un po' un Vaticano un po' diverso, che ci stavamo in qualche modo un po' dimenticando, quello pre-Francesco, appunto di quell'anno del 2012, inizio 2013, dove è accaduto di tutto, lo stesso Nuzzi lo ha raccontato nei suoi libri, ma insomma poi l'abbiamo visto tutti, i processi e quello che è venuto fuori, e che ancora molto deve venire fuori, chissà se mai verrà fuori, nel famoso rapporto consegnato dai tre cardinali a Ratzinger e che Ratzinger ha passato quel giorno a Castel Gandolfo al suo successore. Di fatto Bertone, quello sì, Bertone che non era, diciamo così, abituato al potere, ma ci si è trovato tutto insieme quando fu nominato nel 2006 segretario di Stato, diciamo, ha voluto mettere subito i suoi uomini ovunque, soprattutto nelle finanze vaticane, e attorno alle finanze vaticane si sono consumate le vere guerre, più che sulle questioni di dottrina o su altre questioni dove magari il Vaticano e la Santa Sede ha degli interessi maggiori dal punto di vista religioso. Beh, tutto avvenne attorno alle questioni economiche e tuttora in qualche modo è così, perché attorno all'autorità di controllo, quella di cui ieri proprio il direttore ha fatto quella specie di conferenza stampa dove più o meno ha fatto una dichiarazione, poi ha negato tutto, non ha risposto a nessuna domanda, di fatto è attorno al controllo di questo ente di controllo e si è consumata una guerra tuttora in corso. È stato fatto fuori recentemente il cardinale Nicora, è stato messo un altro presidente che si risulta anche lui sia in contrasto, perché di fatto le finanze vaticane, ora al di là di, diciamo così, di tutto letto e poi in controluce, c'è un gruppo che, di controllo in qualche modo, che fa capo al gruppo americano, quindi Cavalieri di Colombo e non solo, che hanno, diciamo, una forte presa sia dentro le stanze della segreteria di Stato sia irradiandosi nelle varie enti. E quindi la riforma che il Papa ha avviato, Papa Francesco recentemente, creando il nuovo Ministero delle Finanze e altri organismi, diciamo, anche lì si stanno consumando delle guerre interne per chi controlla cosa e se questo nuovo ministero controllerà gli altri enti, se alcuni perderanno la loro autonomia. Diciamo questo, su questo va detto che il Papa è veramente quasi da solo a decidere, e il segretario di Stato Parolin, che appunto anche lui condivide pienamente questa linea, in qualche modo vuole perdere quel ruolo da primo ministro che Bertone aveva accentrando su di sé tutti i poteri. Quindi c'è, come dire, un meccanismo per cui i poteri andrebbero redistribuiti, però questa redistribuzione genera comunque delle guerre e sfociano anche in vicende come questa, perché è evidente che se la Bild, il giornale tedesco, ha tirato fuori questa cosa vuol dire che qualcuno gliel'ha data, e quindi non a caso peraltro forse sia tedesco, e quindi questo significa che comunque dentro c'è ancora un movimento. In questo caso hanno rivelato un fatto importante, gravissimo, non sappiamo se c'è un'indagine penale, sappiamo che per esempio però la Procura di Roma, questa notizia di poco fa, non so se l'ha vista, è uscita la Procura di Roma, che sta indagando tuttora sullo IOR, perché c'è l'indagine del 2010 che va avanti nei confronti del direttore generale, mentre è stata archiviata la posizione dell'ex presidente Gotti Tedeschi, indaga ancora sullo IOR e ha comunicato poco fa che si è imbattuta in questa vicenda specifica della Lux Vide. Quindi, diciamo così, anche questa vicenda entra nelle stanze italiane, non solo rimane in quelle vaticane. Certo. Gianluigi Nuzzi, proprio in sintesi, in chiusura, se riesce a dirmi quanto peso ha ancora Bertone, l'ex segretario di Stato, e effettivamente diceva Marroni, quindi sì, Bergoglio vorrebbe rinnovare, ma è più quasi un messaggio verso l'esterno e un tentativo interno, ma con ancora uno status quo che è riluttante a cambiare, no? Quasi solo, diceva Marroni. Allora, io non voglio sembrare pessimista, però tutte le riforme del secolo scorso, riforme della Curia Romana, 6 ne ho contate io, mi sbaglierò, sono tutte fallite. La ragnatela di potere di ricatti che ha alimentato un determinato gruppo di potere all'interno del Vaticano, che è cresciuto da Paolo VI in poi, con Wittila, con Ratzinger, sicuramente oggi è un sistema di potere che non è stato scalfito dal Papa Francesco, ma si è semplicemente inabissato e mimetizzato. Bertone fa parte di questo sistema, ma è una delle espressioni più visibili e quindi più colpibili e quindi, attenzione, più sacrificabili. Perché nel momento in cui un potere viene messo, rischia di essere ipotecato, è chiaro che elimina gli elementi più visibili e più delegittimanti. È chiaro che ci sono, che questa struttura di potere si è inabissato. Già durante Wojtyla, già nel post Wojtyla, cioè con l'altro muro, non a caso, scusate, i figli di Mennini, di Strobel, di quel gruppo che è il collaboratore di Marcinicus, li ritroviamo alle leve di comando nel periodo di Ratzinger all'Apsa, no? Cioè quando tu, perché ecco, voglio concludere però sì, con un'idea di speranza, se mi permetti. Sì. Cioè, Ratzinger ha cercato di cambiare le leggi e ha cercato di cambiare gli uomini, venendo ostacolato. Paolo Gabriele, il suo maggiordomo, mi diceva mille volte che Ratzinger era lasciato solo. E Papa Francesco cosa sta facendo? Sta facendo qualcosa di in più all'interno della cura, sta cercando di cambiare la mentalità, che è la strada maestra perché le cose cambiano. Lavoro lungo, ma insomma speriamo efficace e profondo, da far con molta fatica, Gianluigi. Io ti ringrazio Gianluigi Nuzzi, grazie Gianluigi, a presto. E grazie Carlo Marroni. Grazie a voi. Ciao Carlo, abbiamo la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccole qui, in pochissimi secondi, europee, rissa finale, scintille tra Berlusconi e Grillo in particolare, e Renzi che dice io vado avanti. Comunque lo spread sfonda quota 190, la Tasi resta nel caos e legge il decreto casa, sconti per chi affitta. Tentata concussione, arrestato il presidente del Consiglio della Campania, Romano, si chiama Romano, in lista del nuovo centrodestra, l'europeo era candidato, Alfano dice era meglio dopo il voto, e poi l'avete sentito, bufera su Bertone per l'operazione Ior Lux Vide da 15 milioni. Lo dice il tabloid Bild. E adesso invece parliamo di Europa e interverrà tra poco Paola Concia, ex deputata del PD, che interviene appunto a Radio 24 sui diritti civili in Italia rispetto all'Europa. La intervista Elisabetta Fiorito. Europa 24 notte. Buonasera per questo Spazio Europa, siamo qui a Montecitorio con un'ex deputata del PD, Paola Concia, e parliamo con lei di diritti, come l'Italia possa adeguarsi all'Europa. Buonasera, buonasera. Ma quanto il nostro paese è lontano dall'Europa in campo dei diritti? Ma mi pare anni luce, anche qualche paese dell'ex est Europa, degli ultimi paesi che sono entrati nell'Unione Europea, hanno comunque fatto dei passi avanti. Oggi l'Italia è ferma su questi temi, come purtroppo su altri, è uno degli ultimi paesi, insomma, se non addirittura dai paesi fondatori l'ultimo, insieme alla Grecia. Le parti sono rovesciate e non va bene quando accade questo, ovviamente non va bene. Per cui oggi però ovviamente i giudici e i tribunali sono costretti a prendere atto della realtà, tanto per l'inseminazione artificiale quanto per esempio per quella coppia di Grosseto a cui il tribunale ha riconosciuto il legame familiare. Il suo stato civile in Italia e il suo stato civile in Germania, dove è praticamente dove vive la sua compagna, sì. Qual è la differenza? La differenza è che io e Riccarda siamo, nonostante lei abbia anche cambiato cognome e porti il mio cognome, siamo due perfette sconosciute, non abbiamo nessun... In Italia. In Germania siamo una famiglia, abbiamo quasi tutti gli stessi diritti di una coppia sposata, l'unico che non abbiamo per ora, perché secondo me cambierà in breve tempo anche quello, è l'adozione. Per il resto fiscalità, diritti successori, tasse, tutto. Io sono regolarmente registrata al comune di Francoforte. Dove vi siete sposati? Esatto, dove siamo sposate, da agosto potrò avere la doppia cittadinanza, perché appunto dopo 3 anni di matrimonio fai l'esame come tutti e puoi avere la doppia cittadinanza, e poi tutti i diritti, posso stare nell'assistenza sanitaria di mia moglie, adesso mi iscriverò gratuitamente perché sono appunto sua moglie, e niente, siamo regolarmente una famiglia come tutte le altre. La Corte di Giustizia Europea, secondo lei, dovrebbe intervenire di più, fare un po' più di pressing sull'Italia affinché si smuova un pochettino il Parlamento nel campo dei diritti civili, che sono arretrati rispetto a quelli degli altri paesi europei? Ma l'unico strumento che potrebbe avere l'Europa, diciamo il Parlamento europeo, sono le direttive sono vincolanti. però nel Trattato di Lisbona queste tematiche legate all'uguaglianza, ai diritti delle coppie omosessuali in particolare, non rientrano, diciamo, non possono diventare obbligatorie per gli Stati membri. Io credo che poi per fare questo è anche un po' umiliante che ci sia bisogno di, per fare una legge del genere, che ci sia bisogno, no, di essere costretti a farla, no? Credo che sia un po' umiliante questo. Ringraziamo allora Paola Concia e grazie di essere tornata qui in Parlamento, almeno per una volta. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Anche questo quindi un tema europeo, non solo, manco a farla apposta, vedo adesso un'agenzia di poco fa, dopo l'Oregon negli Stati Uniti, anche in Pennsylvania una corte federale ha stabilito che il divieto che impone alle coppie gay di non sposarsi è incostituzionale. Sino ad oggi sono 18 gli stati americani in cui le nozze omosessuali sono perfettamente legali, la Pennsylvania potrebbe essere il 19°. E da questioni europee e americane andiamo a questioni mondiali con Dario Ricci. Caro Dario. Eccoci qua, un saluto a tutti. Primo giorno di ritiro a Coverciano, prima conferenza stampa del TCT nazionale, Cesare Prandelli, e c'è anche il portiere Buffon, naturalmente. Il portiere, capitano, numero uno assoluto, direi, reduce da una straordinaria stagione, ma anche da qualche problemino in famiglia, perché di fatto Buffon ha compiuto la sua uscita più difficile. Ha fatto, no? L'outing, non il coming out, ma l'outing. Insomma, direi caso. Che ha voluto spazzare via prima dei mondiali tutte le voci sulla sua vita privata, perché di fatto ha ufficializzato la fine della relazione con la moglie Alena Seredova, la conosciamo, la nota showgirl. Non ha ufficializzato quello che la sua storia, la sua storia parallela, che sembra ormai acclarata con l'anchor woman di Sky, Ilaria D'Amico, però insomma quantomeno ha detto delle parole chiare e devo dire anche belle, mi sono piaciute. Vogliamo sentire? Sulla fine di questa relazione. E sentiamo. Alena, che devo dire in un momento molto magari delicato, in un momento nel quale bastava niente per crearmi delle difficoltà, anche dal punto di vista mediatico, beh, si è comportata, è stata una donna veramente con una dignità incredibile, che ha messo davanti l'amore per la famiglia, l'amore per i figli, che non magari il proprio ego. E questo è un qualcosa per la quale ringrazierò per sempre, perché magari, nonostante magari fossimo separati da un pochettino, poteva avere tutto il diritto magari per poter crearmi dei problemi, e invece è stata splendida come pensavo fosse, come ha dimostrato di essere. E come dimostrano spesso le donne, mi lasci dire, Dario Ricci. Ma insomma, era più bello il fuori onda delle parole di Buffon, perché con Roberta abbiamo polemizzato, qualcuno ha un occhio nero qui, eccetera. No, io ho gli occhiali, ma pure tu, anche non tu, ci anche possiamo tu. Sì, perché se devo leggere le notizie all'ultimo momento, se no non le vedo, se devo soltanto discorrere. Vabbè, insomma, comunque, diciamo, il succo è che c'era l'idea di ufficializzare la rottura di questo legame dopo il mondiale, ma è chiaro che sarebbe stato un argomento troppo troppo caldo in un momento in cui si è alleggerito, comunque, diciamo, si è alleggerito, fammelo dire adesso. Sarebbe stato troppo difficile da gestire a mondiale in corso, insomma. Quindi sugli altri tutti tranquilli, sono 30, ha parlato Prandelli, questi 30 secondi che abbiamo, deve arrivare a 23 una spending review o cosa significa questa cosa? No, è un reality nazionale, quindi 7 verranno eliminati. Non votati però dai tifosi, credo. No, decide solo il CT, insomma. Bene, decide adesso il nostro tecnico, che abbiamo finito, senti la sigla, grazie. Commissario tecnico anche lui, no? Sì, solo tecnico e basta. Solo tecnico, Fabio solo Cantore. Commissario, non so bene, grazie Dario Ricci, noi grazie a tra poco. Grazie a voi.